devo dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, fatene una ragione, cioè è che tu sia simpatico, sei arguto, delle volte dici veramente delle minchiate, scusami, che non stanno né in cielo né in terra. Ragazzi, ma veramente pensate che sia una notizia? Che sia una notizia la morte di 700 musulmani alla Mecca? Cioè, oggi tutti i giornali, tutti i siti online, tutti i telegiornali titolano su questa cosa qui. Ma voi pensate, a parte che dal 1990 bisognerebbe chiudere la Mecca, lo dico subito, chiudete la Mecca! Eccolo là, chiudete pazzo. Subito! È no, ma ragazzi, ma non è possibile! Impazzito. Dal 1900, a me non me ne frega amici niente. Amici dello stand dell'Arabia Saudita, che siete vicino al signor Cruciani, amici dell'Arabia Saudita lì presenti a Expo 2015. Venite no, qui venite. E cantategliela al signor Cruciani, blasfemo d'un blasfemo. No, fermo, no, non puoi, scusa, sì, ma non puoi fare appello a quelli dello stand dell'Arabia Saudita. Arabia Saudita. Ma quella è gente gente pericolosissima. Amici dell'Arabia Saudita, chiedo scusa se non sono lì intanto a Milano a Expo 2015, sono qui non a Roma. Non ce ne frega studio, una massa, a noi non ce ne però può fregare di meno. L'appello è agli amici dell'Arabia Saudita, non dire stupidaggi, cioè, ma perché devi sempre dire no, sempre ragazzi, chiudete la Mecca. Chiudete la Mecca, ma chiudete la Mecca. Ma è uno dei posti sacri per l'Islam. Io lo sai cosa penso delle religioni? Che siano alla fine il più grande male che possa esistere nel mondo e fonte di milioni di morti ogni anno. Ma lasciamo perdere questo aspetto qua, è quello che penso io, eccetera. Ma ti pare normale che dal 1990 in questa maledetta la Mecca muoiano 3.000 persone? Ma per che fare bestemmiando no, dicendo così? No, non sto bestemmiando. Per beh, fare sì, perché c'è è l'obbligo. Una città sacra. No, scusami. Tu hai l'obbligo di andare una volta l'anno a Gerusalemme, là te la dico, non ce l'hai questo obbligo? Ma non ho no, l'obbligo, ecco, ma quelli là c'è l'obbligo di andare almeno una volta ma a fare questo per chi giro ci crede, assurdo però. Con la, della purificazione, ma il lavacro. Ma ieri ho fatto il digiuno del Kippur, ad esempio, non è un obbligo, se uno vuole lo fa, se ragazzi, non vuole non lo fa, come alla Mecca, 700 uguale. Morti, 700 morti. Alla fine ma non mica posso per, ma per colpa lo di chi che, questo? No, lo sai, perché la calca, la ressa, le cose... Ma evidentemente il governo saudita ha organizzato le cose. Ma perché non bisogna... No, ma dal 1990 a 3.000 morti, ma perché non bisogna evidentemente dire le cose, prendetela roba... col governo saudita allora. No, ma, non ma è una roba medievale, è una roba ma medievale. Ma perché che sei un miscredente così? Ma per chi ci ma crede, nel 2000, scusa? Nel 2015, quasi nel 2016, è sopportabile la presenza di persone che si fanno... Devo ma dirti certo, la verità, saranno ma è pure povera delle gente. Feste più importanti, ma tu se sei la sono a un po' cercata, se la sono un po' cercata, diciamola tutta, dai, tu. Se uno va alla Mecca... Io mi dissocio totalmente da questa follia blasfema che stai dicendo, pura blasfemia. Stai calmo. Blasfemia, no, blasfemia. Io penso davvero che chi va alla Mecca con i precedenti possa, come dire, possa ammettere, possa ci sta, vai là, ci sta che rimane schiacciato 700 morti, che devo, è così, la penso così e lo è dico, un problema del governo saudita, non di chi ci va, scusa. Il governo saudita, certo, là, ma quindi che diglielo frega, al governo saudita. Morti, no? Diglielo al governo saudita. No, ma chiamali pure questi qua. Oh, passiamo. Allora, a proposito di religioni, c'è il Dalai Lama. Non si possono offendere milioni di musulmani. No, ma io non ho offeso nessuno. Non ho offeso nessuno. Ho detto che bisognerebbe quella chiudere perché 3.000 morti dal 1990. Se l'Arabia Saudita ha a cuore la vita delle persone, dovrebbe chiudere la Mecca. Ma è un problema del governo dell'Arabia Saudita. Invece vi fa comodo quando l'Arabia Saudita viene a comprare i gioiellini a Milano, i grattacieli. Lì vi fa comodo. c'è una questione molto seria, che è quella del Dalai Lama. Io voglio fare un elogio di quest'uomo. Non sono buddista, anzi i buddisti nel mio portone mi rompono un po' le balle perché ogni mattina lo ripeto per l'ennesima volta, ma non fermato pure, non puoi dire alla radio che noi facciamo casino con la tutta quella nenia pazzesca che è il buddismo. Cioè, però devo dire che il Dalai Lama ha detto una cosa bellissima dal punto di vista della comunicazione, perché il Dalai Lama, bisogna dire la verità, è un grande uomo di comunicazione. Qui davanti a me c'è Red Ronnie, che è un grande uomo di comunicazione pure lui, e credo che sia d'accordo su questo. Cioè, il Dalai Lama è un grandissimo uomo di comunicazione, e siccome capisce come va il mondo, cosa ha detto? Ha detto: dopo di me può anche venire una donna. Esto è stato tacciato di macismo, di sessismo, ma in realtà non è così. Ha ragione lui. Una donna dopo di me, sì, basta che sia figa. Cioè, non ha detto proprio figa, ha detto deve essere una un po' attraente, cioè, un po' attraente. Però questo voleva dire: cioè, se deve venire una donna dopo di me, non è che puoi mettere una racchia capo del buddismo, capo del, cioè, al posto del Dalai Lama, devi mettere una figa buddista. Ma no, allora, non ha detto proprio così. Se, come dire, come che no, abbia un certo appeal. L'ho vista questa cosa, non ma lo no, intende attraente, come lo intende. Di tu che sei un ma vecchio ecco, porco ormai. Ma è proprio ma così, sentiamo l'inglese. Tanto anche i nostri amici. Oggi ho incontrato un tassista che era molto più acculturato di te, che mi portava qui. Vabbè, e mi ha detto una cosa fondamentale su come alla sua età, su perché non si deve prendere il Viagra, il Cialis, e si deve prendere un'altra roba. Mi ha dato un consiglio, non lo prendo, però per chi. Poi lo metterò in collegamento più tardi, c'è tutta la serata qui all'Expo. Però mi ha dato un consiglio fondamentale. Voi che avete oltre 60 anni, potete evitare il Cialis e il Viagra con un'altra roba, tutta naturale. Aveva in mano un libro, un tassista favoloso. C'è un libro in cui si era spiegato tutto. Bisogna farsi qualcosa al sedere, ma te lo dico dopo perché voglio sentire il Dalai Lama, che sapranno apprezzare anche gli amici tassisti. Any possibility female Dalai Lama? I mentioned why not? If female Dalai Lama come, the face must be very, very, should be very attractive. Oh, well, I so you can only have a female Dalai Lama if they're attractive. Is that what you're saying? You can't have. I mean, if female Dalai Lama come, then right. That female will be attractive. Must be very attractive. Must be very attractive. Vabbè, attractive, avete capito? Attractive deve essere attraente, sì, era quello che intendeva Parenzo. Ma non in senso dimmi fisico. Dimmi che sei d'accordo, Red, diglielo pure tu, Parenzo, dai, d'accordo. Buonasera intanto a Red Ronnie, che stasera torna incredibilmente alla Rai, ma non è che torna in pianta stabile alla Rai, però dopo quanti anni riappari sugli schermi della Rai stasera qui dall'Expo, Red? Beh, dai tempi di cos'era? Ma che c'è, non lo so. È stato l'editto bulgaro contro di te pure la Rai, che c'è? Ma che ne so, l'editto bulgaro. Ma voi due mi sembrate Jack Lemmon e Walter Mattano. Beh, adesso questo è un elogio, dottore eccessivo. No, voi due, te e Parenzo. Siete proprio Jack Lemmon e Walter Matthau, tarragagnate, come si dice, visto che siamo in Emilia Romagna, si dice tarragagnate sempre. Ma tu lo sai che noi non ci siamo messi, non ci siamo parlati tutto il giorno. Ma lo so. Non ci siamo parlati tutto il giorno. Se ci parlassimo sarebbe peggio. Sì, ma perché sareste attori pessimi, invece spontaneamente siete così. Perché io sapevo di toccare. Io sapevo che avrebbe detto una stronzata su quella roba dell'Islam. Sapevo che temevo l'avrebbe detta. Il Dalai Lama è un genio o no? Temevo. Il Dalai Lama è un genio, anche perché riesce a vivere nonostante il boicottaggio di una maxi potenza come la Cina, di cui tutti hanno paura. E quindi la Cina no, il Dalai Lama rappresenta una spina nel fianco della Cina. Quindi, adesso la spina nel fianco. Sì, i cinesi non è che se la fanno sotto il Dalai Lama. Io ti dirò questo: al ritorno di Shanghai, da Shanghai, sull'aereo dell'Air China, c'era l'acqua minerale. Sì. Sai come si chiamava l'acqua minerale? Tibet. E allora? No, perché non voglio nel Tibet. Rosicano, perché è un modo per affermare la sovranità sul Tibet. Ah, perché dicono è nostro. I cinesi stanno a rosicare. È un po' come gli Stati Uniti. Ha ragione sulla donna o no, capo? Ha ragione perché oggi l'immagine conta moltissimo. Ma scusa, il Papa, io l'ho definito un clown, un magnifico attore, un personaggio fantastico. Papa, oggi è andato a fare sta sceneggiata al Congresso americano dicendo che sono contro la pena di morte, contro il traffico di armi, il possesso di armi. Ma gli americani e gli stati non gliene frega nulla di quello che dice il Papa. È un grandissimo uomo di spettacolo. Esattamente come il Dalai Lama, uguale, identico. Sono grandi, devono essere uomini di spettacolo. Ma se non fossero grandi uomini di spettacolo, non avrebbero i media. E oggi per comunicare hai bisogno dei media. Oh, c'è Red Ronnie che ha una magnifica teoria sulla Volkswagen, cioè che è tutto un grandissimo complotto americano. Non cioè sono gli americani che gliel'hanno buttato dentro, glielo vogliono mettere in quel posto ai tedeschi. Sì, ed è convinto, ma l'ha detto prima. Adesso, siccome è un uomo di, come dire, che non sì, adesso ce lo dici, ma c'è tanta gente lì davanti a te? Sì, c'è gente in fila per il padiglione Italia, dai. Me io li non ho avvertito nessuno, tutti. Non me ne frega niente. Me li non saluti mi va di stare qua. Uno trovo l'Expo uno. Un posto, ma come sapete, volevi, terribile. Se tu, Parenzo, volevi salutarli, venivi qui. Non te lo so, Red, ma non posso. Solo che ha problemi familiari, capito? No, ha problemi familiari. Sono anche bloccato alla schiena. Ah sì, ha problema alla schiena. No, la schiena. Bisogna chiamare perché, poi, sì, perché mangi di merda. E quindi mangiando di merda, carnivoro. Esatto, mangiando di merda crei dei gas nell'intestino che premono sulla schiena e hai problemi sulla schiena. Ma nessun gas, sì, quello. Ha ragione lui stavolta. Mangi malissimo. Ho fatto un intervento sbagliato. Scorreggi? Quanto hai scorreggiato ieri? Quante scorregge fai? Io intanto non... Quante scorreggio fai? Questo te lo chiede Red, rispondi almeno a Red, se non vuoi rispondere a me. Scusa. Le grandi inchieste della Zanzara sono queste. Quante come report, come report. Le grandi Vabbè, comunque diciamo una cosa prima del traffico. Da Expo per sapere le mie flatulenze. Squinzi, fai qualcosa! Scusate, ho avuto un attimo una traffico, traffico. Scusa. Traffico veicolare autostrada pedemontana. La prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Siamo qui all'Expo con Red Ronny, che stasera alle 21, chi non ha un cazzo da fare a Milano o anche chi vuole venire, presenta Ritorno in Rai, dove c'era stato una specie ma di dittato contro di lui. Ma è su Rai 3 in diretta sta cosa stasera? Rai 3, concerto di Edoardo Bennato. Sì, stasera sì, c'è Edoardo Bennato and Farmers, cioè praticamente è l'omaggiare finalmente la vera forza di Expo, che sono gli agricoltori. Sì, dai, su, è tutta una finta, dai. No, bello questo, giusto questo. Vabbè, però dimmi una cosa. Una volta che non siete d'accordo mai, tu dici una finta e lui bello. Ma no, ma perché lui qualunque cosa sia costruttiva e positiva, per lui fa schifo, capito? Questo è il tema. No, ma che costruttiva positiva, dai. Non mi fare parlare, dai. È bello perché Edoardo Bennato torna con un nuovo disco. Ah, sì, questo è vero. E stasera c'è questa diretta su Rai 3 che presento con Presenti Sveva, tu incredibilmente. Ma con perché Sveva Sagramola. Ma che hai dovuto fare per tornare alla Rai? Spiega. Niente, Oscar Farinetti ha chiesto alla Rai. Cioè, solo per merito suo, diciamo. Sennò ma no, ma io avevo incontrato Vianello, poi non se n'era fatto nulla. Nel senso se non io... c'era Farinetti. Ma se non c'era Farinetti non sarei tornato. Ah, ecco, la grande mano di Farinetti, la longa mano non di è Farinetti. La longa mano, è semplicemente che sa che io sono una... lui ama la musica. Che non è un vegetariano Farinetti, comunque ti informo. Che non è un vegetariano. Ma per me ha fatto benissimo. Grande carnivoro, un grandissimo professionista. Ha detto noi vogliamo fare una cosa importante che può essere il primo di una serie Ant Farmers, un omaggio agli agricoltori. Quest'anno abbiamo Expo, lo facciamo dalla Perché non lo fai diventare vegetariano Farinetti? Ma perché io non faccio diventare vegetale nessuno? Io non ti vengo a dire che tu devi diventare vegetariano. Io lo sono e la gente vede come sto. E allora, basta, però, ragazzi, siccome i vegani. Se la gente vede lui è vegan, che dici lui, anche. Lui è vegan, lui è vegan. Io ne ho sentita una che l'ho recuperata, una di Red, che è fantastica. Allora, state bene ad ascoltare questa roba, perché dopo questa roba sicuramente diventerete vegetariani o vegani. Voi, se avete problemi, adesso vi dico di che cosa. Sono stato carnivoro fino al 1990, giusto? Sì. Dixit una volta, Red Ronny. Sì. Facevo più scoregge allora. Eppure Mario Doratti. Aspetta, ragazzi, fissato. L'ha detto lui, mica l'ho detto io. Capito, adesso che sono fissato. Vegano, no, io non ci posso credere. Tu dici i vegani fanno. Se uno diventa vegano non scorreggia più. Ma non è questo, è ma che. Si può spiegare. Bene. Allora, noi non siamo carnivori, perché i carnivori hanno un intestino cortissimo. Mangiano ed espellono. Sì. Noi abbiamo un intestino che è 7 volte la nostra altezza. Quindi ciò no, che noi mangiamo, voi vegani. Noi tutti, l'essere umano. Allora, quando tu mangi, espelli dopo 2 giorni e mezzo. Sì. Tu prendi della carne, la metti a 37 gradi di temperatura e vai a vedere dopo 2 giorni e mezzo che cosa c'è. Quando ho raccontato questa roba, cioè tutta roba maleodorante. Quando ho raccontato questa cosa, un chirurgo ha detto: ecco perché quando apro le pance della gente c'è una puzza così. Invece, gli vegetariani non fa puzza l'intestino quando fa l'intervento. Tu, prima del 1990, scorreggiavi. Come tutti scorreggiavi, però anche in maniera consistente. No, scusa, il mio scorreggia scusate puzza, oggi non più, ma era un discorso tra amici che si faceva. Non ci posso credere, non ci credo a questa cosa qua. Scusa, tu adesso fai scorreggia che non puzzano, ma no, se ne parlerà stasera anche in Rai, immagino, di questo, no? Col servizio stasera radio stasera ma certo nell'isola che non c'è è tutto finito di Bennato, ci sarà questa diretta Rai 3, sintonizzati alle 9. Io dico una cosa, faccio complimenti a Red per questo ritorno alla Rai, spero che sia ancora una nuova, come dire, nonostante la sua età, una carriera fantastica. Però il punto fondamentale è questo: non ci posso credere che se uno diventa vegano non scorreggia più, dai, su. No, ma sai, ma il scusa, contrario, perché la verdura sai provoca la non, non, mi, non, no, mi, non no. mi venire a dire che è una legge fisica, Giuseppe, perché non ci credo. Giuseppe, sai qual è la differenza tra me e te? Che io fino al 90 ho mangiato carne e il mio record era 29 costolette di maiale ai ferri. Quant'era? 29 costolette di maiale ai ferri in una cena ho mangiato. Quindi io quanto scorreggiavi? Io so cosa significa essere carnivori e so cosa significa essere vegetariani. E tra queste cose c'è anche il privilegio di non scorreggiare più. Tra le cose che ci sono, stare bene, non prendere antibiotici dal 90, non ammalarsi, crescere, non è... di più, dice qualcuno. Cresce di più, fare l'amore meglio, che è una cosa che ti interessa molto. No, si scopa molto. Meglio. Molto. No, dai, lo sapevo che l'interessava. Vedi, ormai Parenzo lo conosco benissimo. Vedi, hai nomi sta roba tasto, qui. Giusto, questo non mangio più per i prossimi 20 anni. Ma guarda, no, poi se gli dico anche che il pisello diventa più lungo, no, è ancora più libidinoso. Però questo non è vero. No, questo non è vero. Questo non è vero, però si scopa meglio. Sì. Perché hai una sensibilità maggiore, non hai più gli abbiocchi, mi faccio Milano-Bologna di notte alle 3 di notte senza addormentarmi, hai capito? Perché una volta mi davo gli schiaffi. No, ma quello è l'alcol quando ti addormenti. Non è l'alcol, io non bevo. Io, a differenza tua, ma non può essere la carne. Bevo. Se ti mangi una bistecca oppure non la mangi, non è che ti addormenti. Ti toglie l'energia. No, la bistecca, ma scusa, la tua leone, è che si fa... scusa, c'è la canzone "Il leone si è addormentato", il leone è carnivoro? Perché c'è la canzone che allora, perché dicendo... i gatti dormono sempre, sono carnivori? Perché? Ma dormono perché più... non hanno un cazzo da fare tutto il giorno i gatti, ma perché per forza? Dai, scusa. Ma che discorsi sono? Non diciamo, ma il gatto, perché dicendo che... ma il gatto non fa un cazzo! Io, anch'io dormirei tutto il giorno, scusa. Io vorrei dimmi, chiedere sulla scusa radio, a tutti, uno deve parlare di scoregge e di gatti. Quelli, una cosa incredibile. Chiedo scusa a tutti quelli che mi dicono non tornare più da Cruciani, ti prende in giro. Ma insomma, ma scusami amico mio, il gatto dorme! Mi dici perché il gatto dorme? Ma io vado ai matti se il gatto, ma chi se ne frega del gatto che dorme? Perché i carnivori non hanno energia. Era il gatto non che dorme. Seguì i disegnini, scusa. Parenzo, era un esempio per far capire. Ma io voglio dire, che ma il gatto che dorme. I carnivori non hanno energia. Ma guarda, te se i miei mi dovevano far studiare per parlare del gatto che dorme, ma è una roba incredibile. Gli animali più forti sono vegetariani, il rinoceronte, ippopotamo, l'elefante. Io ti dico una cosa, è vero che io scorreggio. Sì. È vero, dunque, questa tua teoria può essere valida. Da questo punto. Non ci credo, però fanno può essere puzza. Molto, sì, moltissimo, esatto. Moltissimo. E come e so, anche a sorpresa dirò, le faccio. E ti dirò anche un'altra cosa: che quell'odore per te è odore, per gli altri puzza, perché solo chi la fa la regge. Sì, è un odore meraviglioso per me, esatto. Ma quello sempre vale. L'odore, tu sei innamorato i propri odori, esatto. Sì, questo sempre. Esatto. Ma anche tu sei innamorato della tua puzza. In e non la faccio più. Ma no, ma dai, non scorreggi più, ma non è possibile, non ci credo. Comunque, prima questa cosa qua. Secondo, però, la tua teoria vacilla sul sesso, perché io ancora, nonostante il fatto che sia carnivoro, mangio un sacco di carne. Ce la faccio, sì, però, diciamo che ce però, la faccio. Però vedo che tu sei ossessionato. Ma tu me l'hai detto stavolta. No, tu sei ossessionato dal Cialis, dal Viagra, che sono cose che per me non esistono. Perché? Tu invece sei talmente affascinato che tant'è vero che oggi farai una dirata con un taxista che ti parla dell'alternativa al Viagra. Vuol dire che tu sai che o ne hai bisogno o presto ne avrai bisogno. Perché tu mai preso? Mai. Assolutamente no. Mai preso. Ma mai. Cioè ancora vai alla grande. A 63 anni io non ho bisogno di assomare lontanamente. E vabbè, ognuno ha le sue fortune a 63 anni, cioè, per carità. E quindi tu quanti anni hai? No, 49. A 49 anni già parli di Viagra. Senti, ma è vero che il latte non bisogna mangiarlo? No, non bisogna mangiarlo. Perché? Cosa fa? Perché fa male. Fa male il latte, adesso questo cioè... Parenzo, per favore, tu a tuo figlio adesso, che è piccolo, c'è un figlio piccolino. Cioè, beve il latte, beve, no, tuo figlio? Beve tantissimo, cioè, la mattina quando si alza, poi la colazione diamo il latte, il yogurt. Tu prova di eliminare il latte. Il latte della mamma è necessario, perché il latte è l'alimento per svezzare cucciolo. Quindi la mucca svezza il vitello, ok? Ma d'altra parte, sai, c'è stato un porta a porta di recente. Fare la dieta dall'amico Red Rock. No, però un'ultima cosa e poi lo lasciamo al concerto, che è questa, quella della Volkswagen, la dietrologia sulla Volkswagen, dietrologia, cioè la teoria tua sulla Volkswagen, qual è? Che gli americani la vogliono mettere in quel posto ai tedeschi, qual è? Beh, ma sai, mi sembra che la Merkel si stia allargando parecchio, no? La Germania sta allargandosi parecchio. E allora questo è un modo anche per ma perché tu credi che solo la Volkswagen abbia truccato dei dati? È venuta fuori oggi anche la BMW. No, tu dici molte cose. Però tu dici gli americani. Però anche la BMW tedesca, quanto a caso. E dunque gli americani? Beh, nei giochi di potere globali, quando uno si allarga troppo, cioè sono come le ballerine di prima fila, se uno si allarga un po' gli arriva la gomitata di quella di fianco. Questa è una sorta di gomitata, tant'è vero che immediatamente hanno detto la Merkel lo sapeva, cioè la prima cosa che hanno detto. Hai fatto una scoreggia, però non è vero. Ciao, ha fatto una scoreggia adesso, ci sentiamo dopo, ciao Red, grazie, ciao. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrate. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella Domenica degli Italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Non mettete in bocca a un cittadino cose che non ha detto. Potreste pentirvene fra poco. Poi considerate che fra poco faremo chiudere il vostro programma, quindi anche questo tornerà a vostro svantaggio. Allora, ha colpito ancora Parenzo. Chi? L'onorevole eurodeputato Gianluca Buonanno, detto anche da te come, soprannominato da te come, dillo. Feccia, dillo. No, per quello che ha scritto. No, ripetilo come lo soprannominavi, adesso non è più. Ah, Buonanno. No, good as old, com'è che dicevi? Good as sì, old. Sì, no, in inglese, lo dico in italiano perché è un eurodeputato. No, dillo italiano. In inglese come lo dicevi prima, dillo in inglese come lo dicevi. Comunque ha scritto sulla vicenda della Mecca, guarda, 310 morti, aspetta. Ha offeso milioni di persone, ma non ha milioni, allora, milioni, allora, di fedeli ha offeso, che sono diventati 700, dunque sicuramente lo ridirebbe 100.000 volte, per un pellegrinaggio, cose da pazzi, sono come animali, più che alla Mecca dovrebbero andare allo zoo, dovrebbero andare è semplicemente offensivo, vomitevole. Ma ti pare offendere milioni di persone, di credenti nel mondo? Ma è normale secondo te? Ragazzi, ma dove esiste il posto dove ma uno se lo si lascia schiacciare? Scusa, sì. Ancora, non offendiamo ulteriormente una religione che merita rispetto. Ma ho già detto quello che penso. Voglio dire un'altra cosa, Recentemente, siccome siamo qui all'Expo, recentemente qualcuno molto in alto ha fatto l'elogio della fila all'Expo, quella che davanti a me stanno facendo decine e decine, centinaia di persone, non capisco perché. Cioè, devono essere, perché è un posto meraviglioso da vedere, considerati. Cioè, le persone che sono in fila adesso davanti a me, che stanno andando verso il padiglione italiano, dove non c'è una merita mazza dentro, tranne una bellissima cosa che è un dipinto di cosa, come si chiama? Di Guttuso. Sappiate che dentro il padiglione italiano, dove voi state facendo la fila davanti, non c'è una mazza, c'è una sola cosa divertente, splendida, meravigliosa, che è un dipinto di Guttuso meraviglioso. State facendo una fila inutile, e non capisco perché. Comunque qualcuno recentemente ha fatto l'elogio della fila, che è una delle cose più incivili del mondo, della fila. Beh, la cioè fila, come cazzo si fa a fare due ore di fila, no? Ma è una cosa incivile la fila. Cioè, qualcuno recentemente ha detto, tutto il mondo, cioè, quando uno va al Louvre c'è la fila, no, per andare al Louvre, no? Aspetta, ovvio. Il Louvre, tu stai paragonando l'Expo al Louvre. Ma certo, stai paragonando mondiale, l'Expo al Louvre. Ma sono andato, è meraviglioso. Vabbè, comunque, ci voglio anche tornare con mia figlia. Fermi tutti. Qualcuno ha fatto recentemente l'elogio per dire che no, i gufi dicevano che l'Expo sarebbe stato un disastro, eccetera, eccetera. Ha fatto l'elogio di io divento pazzo. L'elogio della fila. Ci dicevano tutti, l'Expo non funzionerà, sarà un insuccesso, non verrà nessuno. Se avessi portato questi gufi profeti in coda sabato scorso, c'erano 244.000 persone, si sono fatti due ore di coda, ci avrebbero offeso e insultato. Perché? Perché c'era un pienone da tutto esaurito, impressionante. Ragazzi, non si può fare c'ha l'elogio ragione, della fila. No. Vuol dire no, che no, è un no. grande evento che ha apprezzato. Voi che siete male. Lì e state facendo la fila, non potete dire che è bella la fila. È ma un'inciviltà come? La ma fila. Ma chi c'entra? È un'assoluta inciviltà. Andatevene, ribellatevi a questa cosa qua. La fila è incivile. Sono venuti a stare a ore. Vederlo. Cioè, il padiglione del Giappone. Io dico il padiglione del Giappone. Sei ore al padiglione anche del Giappone. 6 ore, forse mi suggerisce Riccardo Poli, forse lo fanno per un po' per adeguarsi, uno si deve adeguare al fuso orario e allora dice aspetti 6 ore così ti adegui al fuso orario del Giappone. Ma il punto fondamentale è che come cazzo si fa a fare 6 ore di fila per entrare ma in un fottuto padiglione? Ma non hai mai fatto la fila tu in vita tua? No, io sono andato ovviamente, no, lo dico specialmente, io sono andato solo perché mi hanno fatto entrare, ho bussato e ho detto senti sono Pinco Pallino, ho fatto vedere sono giornalista, fatemi sono entrare andato, perché non ho voglio, fatto la fila, voglio capire perché la gente fa 6 ore di fila per andare al padiglione del Giappone. E vi assicuro che non c'è un cazzo, ma non c'è matto, nulla, ma non è, niente, è pazzesco. Sì, bellissimo, non c'è niente, una cosa sul sushi, su come si cucina, una rottura di balle paurosa. Cioè, poi c'è un signore molto gentile che ti dice, qui devi fare la fila, bisogna stare 40 minuti. 40 minuti? Uno fa 6 ore di fila per stare 40 minuti e vedere come si fa il sushi quando il sushi sta in tutte le ma ragazzi, dai, insomma, non è possibile. Ribellatevi alle file, non è una cosa buona la fila, è un insulto, è un'inciviltà. La fila è un'inciviltà. Andatevene dalla fila voi che siete là davanti. Scappate, distruggete la fila. Vergogna. Vabbè, dai, Mirko da Parma, 800 24 00 24. Dai, su, non è possibile che uno fa l'elogio della fila. È un'inciviltà la fila, dai, su. È assurdo, vedo gente in fila per entrare al padiglione italiano. Ma dai, certo, un grande evento, la gente non è possibile, vede, condivide Mirko una passione. Quando vabbè, tu sei chiacchera d'accordo, io no, io non la faccio. Si mangia le un file, gelato, io odio le file. Si mangia un kebab. Odio le file, le file sono... La fidanzata, sono... guarda lo smartphone, sì, ha tante robe per da carità, fare. Ma mi sembra una cosa veramente indegna. Mica è un mondo tutto così. Mica dico che sono, per carità, va benissimo, le persone stanno in fila. Però dentro di loro queste persone sono incazzate nere. Io le vedo persone incazzate. Cioè si mascherano sono dentro. Sono lì apposta, scusa. Sono incazzati neri, diventano blu, diventano verdi, diventano gialli, si incazzano. Dico, ma perché io sto facendo? Chi mi ha portato qui? Poi nessuno li ha obbligati. Ci sono venuti di spontanea volontà, per fortuna. Vabbè, Mirko, fammi sentire gli ascoltatori. Dai, Mirko da Parma. Mirko, dai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao, no, dimmi, volevo dire, no, volevo dire, Giuseppe sei uno zozzone, hai detto che, in che senso? Fai la doccia ogni 2-3 giorni. Beh, ogni due giorni, sì, ogni due giorni. Ogni due giorni. Sì, normalmente, persone normali, ogni due giorni. L'estate che c'è, d'estate io me la faccio, tutte le mattine, che altrimenti non mi sento sporco. Faccio la barba, la doccia tutte le mattine. D'estate anche 2 volte al giorno. Allora, no, normalmente, guarda, io... No, non sono. Io non la faccio tutti i giorni. Mi dà un po' fastidio l'acqua tutti i giorni addosso. Mi lavo così, eccetera. Mi dà, poi faccio il bidet, cose normali. Ma fa caldo. Ma ad agosto che c'è? Ad agosto uno si lava perché fa il bagno, se sta al mare, anche se in montagna me la faccio. Sì, però adesso, ragazzi, questo mito della pulizia, della doccia ogni giorno. Bisogna farla tutti i giorni. Vabbè, ma sento, ma ho capito. Ma se uno non se la fa ogni giorno, non è necessariamente zozzo. Se uno puzza, però, rispetto degli altri. Ma dipende, se uno puzza, dai. Appunto, vabbè, Mirko, dopo avermi detto che sono uno zozzone perché non faccio la doccia tutti i giorni, che vuoi? Solo questo. Vabbè. No, solo questo. Ciao. Andiamo, no, ragazzi, ma tutti i musulmani mi avete messo? Absalem, Monir, ma che è? Ma perché li hai insultati? Oggettivamente sono arrabbiati. Dai, Monir da Brescia, dai, io non lo so, boh, cioè mica è radio La Mecca questa qua, dai. Ma per carità, ho detto con tutto il rispetto, Monir da Brescia. Vai. Pronto? Monir, dimmi. Parlo? Sì, abbassa sta radio però, dai, su, sennò c'è un ritorno strano, dai. Monir. Siete, parlo Monir. In merito che ha detto come mai vanno dopo tutti questi morti. Allora, sì, come la fila, questo qua dovrebbe succedere, per carità, non me lo auguro. Cioè, la fila qua è come quelli che vanno alla Mecca. Ma, come ma quelli che vanno alla fedeli? Mecca. Ma non insultare milioni di fedeli. Come che quelli credono, che vanno alla Mecca, è un'assurdità, uno che va là a fare il giro 7 volte ma per la penitenza. Fede, ma non la si può purificazione, insultare un fedele. Ma di che parliamo, ma certo, dai, su. Ma è una roba medievale, è ma una roba medievale. Ma non hai spirito, non hai ma fede, non loro se ci credono. Scusa, ma voi vi stupite davvero perché ci sono stati 700 morti oggi, forse di più, 700 morti alla... Voi vi perché stupite davvero? Perché evidentemente il governo saudita 1900... ha organizzato male le cose. Non, ma non lo so, non ma c'entra 1990, l'Islam. C'entra il governo che ha gestito sta roba, no? Scusa. Divento pazzo. Monir, Brescia, dai, Monir, dimmi, che mi volevi dire? Allora, intanto io sono marocchino e ateo. Intanto così per chiarire ottimo, la ottimo, cosa stupendo, un applauso, mandatemi l'applauso. Marocchino ateo, marocchino ateo. Ci sono anche ci sono milioni come me. Bravissimo, milioni. Ottimo. Non sono vabbè, l'unico. Allora, dimmi. Intanto quei morti sono felici perché pensano di andare in paradiso. Intanto per sì, chiarire. Questo un po' è vero, questo un po' è vero. Qualcuno dice che sono felici. Loro familiare, pure... idem, dicono è morto là, allora andrà in paradiso. Ho capito, ma sono gente... Ma secondo voi è gente normale? Ma non è vero, dimmi la verità. Ma anche tu, Davide, che sei religioso, è normale quello che dice. Ah, che bello, sono morto facendo la fila alla Mecca. Ma vaffanculo. Ma non è vero, ma non è così. Ma non si può dire così. Si insultano le persone. La sensibilità di milioni di persone nel mondo. Scusa. Uno è contento perché poi uno muore. Ma nessuno è contento. Ma non è vero. Ma che è normale? Ma non è vero che è così. Marocchino, ateo, che però conosce bene l'Islam, Monir, giusto? Sì, certo, l'unico paese che critica l'Arabia Saudita è l'Iran per la malorganizzazione, certo, perché tutta la maggior parte delle altre paesi sono sunniti, quindi non criticano. Visto che tutti sono dici contenti, l'Arabia Saudita ha un grandissimo... Ma tu perché dici, lascia perdere adesso l'Arabia Saudita, perché tu dici che questi che sono morti lì sono contenti, cioè le famiglie sono contenti, quando uno crepa uno non dovrebbe essere contento, invece... Nel senso che di solito non vanno i giovanissimi a questi riti, non ci ma vanno. Era pieno di bambini. Se morirà là di là andrà sicuramente in paradiso. La pensano veramente così. Detto questo, l'Arabia Saudita non si fa nessun problema perché nessuno si lamenta. Certo. Non gliene frega niente. Grazie. Absalem, vai con Radio La Mecca. Absalem Agrigento, vai. Pronto? Sì, dimmi Absalem. Allora, Crociani, io ti ammiro molto, ascolta, ti ammiro molto perché sei un grande, perché hai un cervello che non venisce più, però ti prego, non offendere più queste classi umanitarie perché ci fanno il culo qua a lavorare, a mattina fino a sera, a lavare i piatti, a cucinare. Ma chi sto offendendo, scusa? Mica ho offeso te che lavori, eccetera, che dici? No, tu invece quando non ragioni più cominci a offendere fragomentari, musulmani qua là. Non è musulmani. Io ho detto semplicemente chiudete la Mecca, 3000 morti da 90, ma di che parliamo? Là è chiaro che nessuno controlla. Ma che controlla. Cazzo dici tu? Ma che dici, Crociato? Vabbè, non hai niente da dire, dai, fermo. Non hai niente da dire. Ho capito che non hai niente da dire, qui dobbiamo dare la borsa, abbiamo anche la borsa e che dobbiamo fare? Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. La Zanzara. Faccio, io non vi supporto, è un programma brutto, è brutto. Allora, Parenzo, tu ti rendi conto che in Senato c'è qualcuno che grazie a un algoritmo dice di presentare non so quanti milioni di emendamenti, 80-85 milioni di emendamenti. Quest'uomo si chiama 85 milioni di emendamenti. Allora, la gente normale che lavora, la gente normale che si fa il culo, la gente normale che fa la fila all'Expo, perché gente normale viene costretta a fare queste file indegne, vergognose, medievali, ma non è vero, come le file della Mecca, Allora, che sono incivili, non è il segno del successo. Ma quello è il segno, la Mecca fanno la fila, la Mecca fanno un pellegrinaggio, ma proprio non c'è niente. La fila per me. Ma che pellegrinaggio, vai, pellegrinaggio, sì, certo, fanno il pellegrinaggio, purtroppo. Fanno un pellegrinaggio da due città sante per la loro religione. La gente religione. Si fa il culo, viene all'Expo a farsi la fila, e ci sono persone che in Parlamento si divertono con un algoritmo a presentare 85 milioni di emendamenti, facendo pensare alla gente che sia normale divertirsi con la faccia di Danciana. Per carità, è un genio Calderoli, signor Calderoli, è un genio, tutti noi ci divertiamo con Calderoli che brucia, ti ricordi, no? Brucia le leggi inutili. Va in televisione con le magliette, con i maiali, no, contro l'Islam, va benissimo, stupendo, meraviglioso. Dopodiché la gente normale non è che capisce questa cosa qua, che presenta 85 milioni di emendamenti al Senato, perché è una cosa assurda, con un algoritmo, sentiamo. L'algoritmo introduce una quarta, tra virgolette, dimensione che teoricamente a seconda dell'inclinazione dell'asse può produrre emendamenti all'infinito. Può essere usato anche per altri provvedimenti, È stupenda questa cosa qui, cosa è veramente meravigliosa. Folle. Meravigliosa. E tra l'altro dice anche una cosa assurda Calderoli, dice che la riforma del Senato porta al nazismo o al fascismo. Questa riforma è una riforma veramente pericolosa e rischia di mettere un uomo solo al comando, modello fascismo o nazismo. Abbiamo tentato con le buone di cambiare la riforma, non lo hanno capito, adesso proviamo con le cattive. Allora, però c'è un caso clamoroso all'interno della, del centrodestra, all'interno di Forza Italia. Non fregherà niente a nessuno, però quelli che vanno via da Berlusconi per andare da Verdini sì, vengono accusati delle peggiori nefandezze, soprattutto dal giornale. Ecco, leggo oggi sulla prima pagina del giornale che c'è addirittura qualcuno che va con Verdini e lo accusano il giornale di andarci perché deve mettere a posto i suoi familiari, perché si sta separando dalla moglie, eccetera eccetera eccetera, una specie di metodo boffo. Quest'uomo, che si chiama Amoruso, se non sbaglio, Amoruso, Francesco Amoruso, pugliese, viene accusato in aula da Gasparri. Sentite Gasparri. Vorrei che restasse agli atti del Senato, mi assumo la responsabilità di quello che dico, che il suo passaggio, come quello di altri, non è dovuto da sofferenze culturali. A Amoruso del patto del Nazareno non gliene è mai fregato niente, a cui ha dedicato una nobile dichiarazione l'altro ieri. Gli interessavano le consulenze per i familiari, probabilmente. Ma su questo torneremo. Voglio che resti agli atti della Repubblica il comportamento miserevole, la possibilità che alcuni antepongano, e io pure credo alla famiglia, difatti mi batto per la famiglia nella seconda commissione, ma per la famiglia di padre, madre, quella astratta, quella che è il principio della società, non per la mia di famiglia e per i suoi interessi presunti e reali. Allora ragazzi, se le danno di santa ragione, ma bisogna dire la verità. Torte in faccia, veramente. Sì, però è vero, ma anche no, che quando qualcuno passa, quando qualcuno passa, diciamo, a sinistra, per dire, con Renzi è considerato uno che dà una mano alla maggioranza, e quando nel caso di Scilipoti e Razzi viene considerato una specie di merda assoluta. Ma andiamo a... Ah, ma che è? Ancora sto Radio La Mecca qui, Hassan Milano, dai, ma che è? Hassan Milano, vai. Hassan, sì, dai, sì, che forza, parla. Dimmi, sono caro, qua. Dimmi. Allora, io volevo farti i complimenti, ma mi sembra che ultimamente no, non te li sì, meriti neanche. Ma al di là sì, di questo, ma come dice Sgarbi, no, ma ti vuoi informare prima di parlare? Ma su che cosa? Spiegami, su che cosa? È inerente alla Mecca, la Mecca. Ma che cosa? Gente... ma tu perché a te danno ti va bene che muoiano 700 persone? Ti va bene che muoiano 700 persone? 700 morti che sono accaduti sì, quest'anno, non è che, sì, che accadano tutti gli anni, no, non è dal che dal 1990 3000 morti, non è che la gente va lì per morire. Ma è incivile o no? È incivile o no? Assolutamente. La morte non è incivile. No. Ma noi, non è incivile la gestione che fa il governo saudita. Non è che la morte non è noi musulmani, volete che c'entrano? No, ma fammi sentire questo qua. Non è che la morte non è civile, no, assolutamente. E che cos'è, la questione punto, semplicemente allora, che è un dovere di ogni musulmano, va bene, chi può, va bene, andare alla Mecca a farsi ammazzare. Andare alla Mecca una volta. Andare alla Mecca e poi magari resti intruppato e mai. Vabbè, se ti pare una cosa civile, chiudete la Mecca, chiudete la Mecca. Siccome purtroppo chi può adesso, non ci sono i giovani che possono, che vivono in Italia e che quindi vivono anche. Vabbè, no, allora, scusa, tu non mi sembra che sei molto impressionato da questi 700 morti, tu che sei musulmano, non sei particolarmente impressionato. Cioè, per te è normale che muoiano 700 persone, diciamo la verità. Per te è normale, cioè può succedere o no? Mi dispiace per loro, che come certo, mi dispiace di quell'anno che c'era talmente tanto caldo che la gente ci va anche con un cuore aperto, perché fa parte della propria religione. Non mi pare particolarmente affranto. Parte della propria religione. Va bene, grazie. Luigi dalla provincia di Verbania, vai Luigi. Allora, buonasera. Cioè, no, almeno uno dovrebbe avere il coraggio di dire che è una roba incivile. Invece no, è una roba normale andare a fare là in la giro religione, non ho capito. Ma non è insultare. Ma perché non c'è rispetto per la religione? Luigi, il problema di è quello dai, che come l'ha organizzato il governo saudita, non i musulmani ancora, che vanno mia, in pellegrinaggio. Ma che sei quello dell'SS che dice che il problema è l'organizzazione? Luigi stai dicendo delle follie solo per provocare. Quella gente lì è gente che crede, rispettali. Magari dentro di te prendili in giro, ma rispettali. Luigi della provincia, non sto insultando nessuno. Beh, sto dicendo semplicemente che è una follia. Insomma, una follia pensare che questa sia una roba normale. È una roba incivile. Ma no, medievale. Ma come Luigi non è normale? Tante cose tue non sono normali. Ma cosa Luigi c'entra? Perché insultare una di religione di milioni io di persone? Non sto insultando nessuna religione. Luigi, provincia di Verbania, dai. Posso parlare? Sì, vai Luigi, dimmi. Sì, sì, dimmi. Niente, volevo riferirmi a... Dunque, con te sono pienamente d'accordo sia sui bagni che sulla religione. Ma volevo parlare con Parenzo. Per dire, sì, se si ricorda lui che all'inizio dell'umanità si credeva nelle saette. Poi è diventato uno furbo, che era Mosè, e ha detto che c'era Dio, perché lui ormai l'intelletto, il modo di ragionare era cambiato, però Dio di un popolo eletto. Come poi ci hanno detto anche... Vabbè, allora Luigi? Allora gli dico così, che non può esserci un Dio che voglia che vadano alla Mecca, che si buttano per terra 100 volte al giorno per mettere il culo per aria, che si doveva pregare, che deve ma lei, adorare, ma sono, che lei insulta le persone, quindi... No, non insulto le persone. Sì, lei è una persona volgare che insulta le credenze altrui, quindi vada a quel paese. Va bene Luigi, Vincenzo da Foggia, vai, il culo per aria, però tu esagiri Luigi, adesso il culo per aria e pregarlo 5 volte al giorno, vabbè, ognuno prega come vuole, per me è incivile andare alla Mecca, perché se muoiono 700 persone quel posto va chiuso, finito, giù la Claire. Vincenzo da Foggia, dai Vincenzo, no, invece a quello non gli frega niente che muoiono 700 persone, ma come ci ha detto quello prima, certo che ha chiamato frega. Quel marocchino, è considerato una cosa normale, è considerato normale, dai su. Vincenzo, pronto? No, chi c'è? Giampiero, Vincenzo, chi c'è? Vincenzo da Foggia, vai. Pronto? Cruciani? Ho capito, cazzo, parla! Senti, dovevo prendere il ragionamento di Red Ron, là, sul fatto che lui Red è vegetariano. Red Ron, sì, dimmi. Senti, se lui si mangia una bella cofana di lampacioni pugliesi... Ma che sono i lampacioni, scusa? Che sono delle cipolle selvatiche, no? Delle cipolle selvatiche. Lo sfido. Se uno mangia i lampascioni, cioè le cipolle selvatiche, che succede? Lo sfido. Se lui non fa le scuregge. No, aspetta, mettiamo le cose, come dire. Sì, no, sì. Parenzo, cerchiamo di mettere non le cose in ordine. Alle 19:44, mettiamo le cose in ordine. Allora, prima abbiamo detto, per chi non ascolti la trasmissione, per chi non era all'ascolto prima, il signor Red Ronnie ha detto che in quanto vegano praticamente non scoreggia più. Invece quelli che non sono vegani scoreggiano in maniera, oltre che rumorosa, anche fastidiosa, puzzolente, detestabile, eccetera, eccetera. Signor Vincenzo da Foggia, intervenuto in questo istante qui a Radio 24, sempre a radio della Confindustria, il signor Squinzi. Tu conosci il signor Squinzi, sì, Vincenzo? Sì, Squinzi, sì. Chi è Squinzi? Squinzi è presente alla Confindustria. Ah, lo so, lo conosci? L'hai mai visto tu in foto? L'hai mai visto in televisione? Sì, in televisione, sì. E com'è, sto Squinzi? Fisicamente? C'ha gli occhiali, mo non lo so. Ah, bravo, sì, è bene. Allora, tarchiato, sì, se non esageriamo, non insulti. Vabbè, tarchiato, vai, normale. Tarchiato, signore, normale. Robusto, dai. Sì. No, ma che robusto, signore, normale. Ma chi se ne frega, normale. Per dire, perché io magari non mi sta... Non ho preso nessuno, No, assolutamente no, siccome volevo essere sicuro che non mi stai prendendo in giro. Allora, no, il consiglio che dai al signor, chi era? A Red Ronnie o a me? Ron, chi lo vuoi dare? A Red Ronnie, che non scoreggia. Se dei lampacioni. Sì, ma perché dovrebbe... C'è una cosa, diciamo, una bella porzione abbondante di lampacioni, no? Sfido che lui no, farà almeno 10 scorreggi in quel giorno, no, che però, mangia aspetta, le scusa, lampacioni. Pazienza, amico mio, scusa, ma perché? Ma perché dovrebbe... Ma non le vuole fare lui in realtà? Non le vuole fare? Come lui ha detto che è vegetariano, no? Che non va più le scorregge. Ma i lampacioni che sarebbero, hai detto, le? E sono delle cipolle selvatiche. Chiede a Renzo Arbore, lo sa benissimo che cosa è. Le cipolle selvatiche. Le cipolle selvatiche sono particolarmente, come dire... Ricompiono la pancia. Sicuro, e dunque sicuro. C'è una petomania piuttosto frequente. Credo. Sì, capito. Okay. Vabbè, Vincenzo, ho capito. Adesso, se uno vuole scorreggiare, dici prende i lampacioni, mangia i lampacioni. Ti voglio dire una cosa, mi fate passare mezz'ora di viaggio, Doc, ciao amico mio, ciao da Foggia, ciao. A Cruciani, a decaduto. La Zanzara. Bravissimi tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da Festival dell'Ovvietà. Mandate per favore un tipi da Zanzara, che voglio risentire il meglio degli ultimi giorni, eh. Tipi da Zanzara, vai regia, vai. Tipi da Zanzara. Matteo, provincia di Messina, vai. Ascolta Cruciani, chiamo in merito al discorso di Talk Show, no? Sì. Da permettere una cosa, che io ti ascolto tutte le serie, tutte le serie, finisco di lavorare alle 6:30, inizia la Zanzara, tutte le serie bene, che ti ascolto. Bene. In ogni caso io... Ma scusa, ma non sei tu quello che ci ha raccontato una volta della, delle minchie sul Duomo? No, non sei tu. No, no? Le minchie, io sono siciliano, Beh, appunto, le minchie sul... No, non mi ricordo, era uno di Messina che chiamò raccontandoci che gli faceva orrore il Gay Pride perché proiettavano le minchie sul Duomo. No, guarda, io sono favorevole a queste cose. Ma te, provincia di Messina? Mi sto pisciando addosso, sono fuori, sento freddo. Piscia, vai a pisciare un attimo, cioè, porta il telefono, vai a pisciare. Voglio sentire la pisciata in diretta, ti prego. Sì, vabbè. Fammi sentire la pisciata. Vabbè, piccola, no, mi devo dire una cosa e poi magari puoi sentire la pisciata in diretta. Mi chiamati un manico, davvero. Voglio che tu mi dici quello che mi... Guarda, io ti conosco bene, ti ascolto tutto. Scusa, Matteo, tu aspetta un attimo. Allora, tu mi devi dire quello che pensavi, quello che volevi dire all'inizio, cioè su Renzi, credo volevi intervenire, no? No, volevo intervenire sul talk show. Sì, sui talk show, però dimmelo mentre fai la pipì, ti prego, fammi godere. Siccome è urgente, cazzo, la devi fare la pipì o no? Sarà urgente sì, o no? Ma vabbè, sento rumore, che hai? Un microfono, un tuo gabinetto, no? No, non ho il microfono, il gabinetto. Però si sente la pipì. Quello tossisce in onda, guarda. Vai, Matteo, allora, mettiti là vicino. Ti prego, ti scongiuro. Voglio che tu... Hai urgenza o no con sta vescica? Ah, è Parenzo, là, chi hai? No, Telese c'è. Ah, un Luca Telese, lo ascolto, c'è Luca, una che... Ascolti, lo vedi in televisione. Ma ti tira la vescica, ti sta tirando adesso o no? Cazzo, vai! Che fai? Ma fai la doccia, mi devo lavare. Ho capito, ma vai a scaricare sta vescica, ti prego. Tipi da zanzara. Alla fine il mitologico, com'è che si chiama questo qua? Com'è che si chiamava? Parenzo, tu non c'eri e ti sei perso questa cosa fondamentale. Beh, il mitologico Augusta, Matteo da Messina. Conversazione. No, non ci ha dato soddisfazione, ma eravamo in attesa di Daniela Santanchè che è con noi. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Come va? Dove sei? Io sono a Milano, in ufficio, a lavorare. Sì, a lavorare. Secondo te faccio finta. No, se mai no, lavorassi tu come me sarebbe meraviglioso. Questo è vero, noi si lavora sempre meno di chi è negli affari, nell'imprenditoria, in Parlamento, eccetera, eccetera. Però vabbè, io voglio dire una cosa, ma perché hai parlato di animali parlando dei musulmani morti là alla Mecca, cioè di quelli che stanno lì? Perché Parenzo, non c'è solamente, come dire, io prima ho detto una cosa, ho detto che è una roba medievale andare alla Mecca e mettersi in fila. E tu insulti milioni di fedeli. Cioè, ma la cosa è pazzesca è che continua. Allora, a che dovresti dire della Santa Chè che ha detto animali? Che dovresti ma dire? Infatti, anche lei mi pare che con quel tweet stia insultando milioni di credenti. Poi fate voi, scatenate le guerre di religione. Fate voi, ragazzi. Dire, sbaglia sempre il tempo. Divertitevi voi. Sempre, Parenzo, proprio non ha capito. Perché se mi fa questa accusa vuol dire che non capisce l'italiano. Vabbè, però tu hai parlato di animali, però, animali. Come li definireste voi, che siete più colti, più alti? Come li definireste? Fedeli che vanno a fare una cosa che da millenni. Ma avete capito cosa è successo alla Mecca o non l'avete? Certo che abbiamo capito, ma devi prendertela cosa col governo saudita, non con i musulmani, con i fedeli. Ma che c'entra il governo saudita? Ma dai, chi non c'entra niente. Gestisce dai, quell'evento? È il governo. I sauditi a voi fanno comodo perché vi comprano i grattacieli a Milano, poi dopo organizzano quelle cose gestite in quel modo e la colpa è dei musulmani. Ma siete simpatici. Qua si sta parlando di fondamentalismo, di integralismo. Ma quale fondamentalismo? Tutti sono fondamentalisti quelli che vanno alla Mecca, Ma non ho capito perché. Voglio dire, quelli morti in quella maniera lì, schiacciati. Che sono? Visto che parliamo di bambini e tutti ci, voglio dire, piangiamo a vedere quelle scene con la foto che è stata la foto simbolo, volete dire che non provate la stessa tristezza, la stessa, poca forza nostra? No, ma perché hai parlato di animali? A chi ti riferivi? A chi ti riferivi parlando di animali? Scusami. A chi mi riferivo? Secondo te? Che ne so, a quelli morti, a quelli a quelli che vanno a fare il pellegrinaggio, a chi? A quelli che morti? Li schiacciano. A quelli che li schiacciano? Ma non è che c'è una volontà di schiacciarli, ma ragazzi, ma non sapete proprio le cose, ma è una cosa incredibile. Scusa, ma secondo te, Daniela, io non ho capito una cosa, secondo te chi va a fare questi come è collegata? Uno di Cuneo come me, capisce che alla fine non... No, però scusami un attimo, chi va a fare questi pellegrinaggi, chi va alla Mecca, è inferiore secondo te? Cioè, nel senso che... Assolutamente no. Se la va a cercare? Io non entro nel merito perché non mi metto sul piano della religione. Io credo che ognuno, lo recita anche la nostra Costituzione, è libero di professare la fede che più ritiene opportuna. Perché questo è un diritto ed è un principio costituzionale. Ok, sto d'accordo, va bene, d'accordo. Tutto un mio principio di libertà di ciascheduno. Quindi vabbè, d'accordo, ma se uno parla di animale a qualcuno si riferisce, no? Cioè, non lo so, se tu hai letto, voglio dire, io credo che il linguaggio è una convenzione. Nel mio comunicato ANSA era assolutamente molto chiaro. Cioè nemmeno le bestie, adesso, nemmeno le bestie. Queste cose non devono più succedere. Non devono... E dunque che bisogna fare? Ma bisogna chiudere la Mecca? Governo saudita ancora, ma veramente non capite. Ma chi pensate che gestisca quella cosa, quel sito? Era inutile, non ho voglia di... Ma scusami, la Mecca, dove si trova la Mecca? Lo sapete nella cartina geografica o no, almeno? La Mecca, però scusami un attimo, Daniela, però... Se sbagliate a scriverlo vi dice pure forse cercate. No, però c'è una cosa che bisogna dire. Prima ci ha chiamato un musulmano, anzi no, una persona atea, marocchina, eccetera, il quale ha detto cos'è? Che in realtà lo considerano, molte persone che vanno alla Mecca considerano abbastanza normale poter morire. Forse in questo senso tu dicevi bestie, animali, perché la morte è considerata dall'Islam. Loro hanno una considerazione della vita che è diversa da quella della nostra cultura. Per cioè non gliene frega niente di morire in realtà. Vuol dire come fanno i kamikaze, no? Nella loro cultura chi si ammazza sì. Kamikaze, poi sappiamo qual è lo spirito per il quale lo fanno. Non c'entra niente questa cosa. Ma no, io stai non dicendo so, che ma loro in realtà della milioni della di morte, fedeli nel della, mondo della ma morte gliene frega poco. No, sicuramente voglio dire, rispetto a noi, che per noi la vita è sacra, tant'è che da noi kamikaze. Parenzo, un po' questo è vero, perché altrimenti 700 se dal 1990 se da 90 ma perché non sapete? Ma la Mecca è la città più santa per l'Islam, è il posto dove è nato il profeta Maometto. Perché dite sciocchezze? Però tanto so che ho alte probabilità di morire. Ma che discorso è? Allora chiudiamo. La vita è sacra. Ma guardate che siete. Ma guardate che uno va alla Mecca e venga schiacciato come una. Ma una certo zanzara. Che è un luogo sacro. E dove è nato il profeta? L'Islam, e dunque, l'Islam, niente, e dunque l'Islam è incivile. Dillo, è incivile l'Islam allora. Ma come sono incivili gli stadi? Quando escono le persone dagli stadi? Ma guarda che è pazzesco. Ma chi è che... Allora aspetta un attimo. Ma aspetta, quando aspetta, la gente... Cos'è successo una volta aspetta che sta starnazzando Parenzo. Un attimo solo che guarda c'è la pubblicità. Guarda che incredibile, e torniamo subito. Incredibile. Sì, ma fai parlare Daniela Santacchia. Ai concerti, alle partite. Altre volte è successo, no? Ma non c'entra niente. Non puoi paragonare le partite ma con la persone, con la Mecca. Ma siete delle bestie. Siete voi proprio che non avete pubblicità. Nessuna... Scatenate la guerra dell'Islam proprio. Voi della zanzara incominciate a essere rincoglioniti, La zanzara. Sentite? David? Sì, come no? Eccoci qua. Intanto continuano le file incivili qui davanti all'Expo per entrare alla Padiglione Italia. Se per ma voglio dire, civile... tu e la Santa anche state dicendo delle bestialità talmente grosse. Stai tranquillo. Talmente il primo grosse. Ministro che si chiama Renzi ha dato a metà degli italiani delle bestie, Parenzo. Ma certo, infatti dite bestialità. Non allora, ricordate... Allora, se uno dice che è una mattanza, che è bestiale, perché la vita delle persone voi, non può valere meno di una preghiera, ma come mai lei non ha così ma urlato? Avete detto Renzi la stessa cosa... Scusa, il 70% degli italiani che siamo delle bestie. Ma avete fatto delle polemiche vergognose nei confronti di milioni di fedeli. Nel 1985, di fedeli, sì, certo. Di quella, di, ma vi ricordate cosa è successo in Belgio nell'85 o no? Italiani. Ma scusami, ma, vi ricordate cosa è successo in Belgio? Ma vi ricordate in Belgio? In Belgio, cosa è successo nell'85? Quando c'era la Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool. Vi ricordate o no? I 39 morti che ci sono stati per una partita di calcio. Perché non usiamo ma perché siete stupidi, islamista. Siete stupidi nella testa. I metodi? I metodi milioni di... con Parenzo, quei metodi lì, lui si fa vedere si fa quella cultura. Insultate milioni di fedeli nel mondo, Parenzo, è una cosa incredibile un concetto, proprio. Allora, però una cosa, però scusa, siccome hai parlato di animali, Daniela, allora devi andare alla conseguenza di quello che hai detto, che l'Islam è incivile... tutte le no, l'Islam secondo te è incivile, secondo te l'Islam è una io religione incivile, che la vita delle persone non può valere meno di una preghiera, che quello vabbè, dunque con la Mecca che bisognerebbe fare? È bestiale, bisognerebbe chiudere la Mecca, scusa, quanti bambini sono morti in questa mattanza? Non lo so, allora non lo so, se Parenzo dice tanto ah ma loro vanno alla Mecca e sanno che possono morire, ma non ho detto questo, ma voglio dire, se lui domani decidesse per suo figlio di portarlo alla Mecca e poi farlo morire schiacciato come una zanzara, ma io ma non lo porterei mai alla Mecca perché non ma è la allora, mia fede né la mia religione, ma scusa, vuoi dire che per noi la vita superiore, è sacra? Superiore, ma voi, ah, superiore, non c'entra con l'Islam questo, c'entra no, con l'organizzazione e la gestione di un evento no, c'entra anche con l'Islam mondiale, c'entra anche con l'Islam. Continuate a insultare benissimo i musulmani, continuate a insultare il mondo islamico, andate avanti così, ma io lo insulto ed insulto tutti coloro che non hanno la sacralità della vita. Avanti. Io li insulto, non credo all'Islam moderato e farò la mia battaglia. Faccia la guerra da sola contro milioni di persone. Vediamo noi chi siamo vince, superiori. Avanti. Tutti dici noi avanti. Siamo superiori come civiltà. Fate la noi guerra, siamo su. Migliori perché per noi la vita è sacra. E per loro siamo no, migliori. Ma allora scusa, voglio dire, ma si può insultare un pellegrino che va in base alla sua fede alla Mecca? Perché dovete insultare una persona che crede, che non ha fatto nulla? Perché? No, lei ma vuole dire che noi non abbiamo, ma non abbiamo gente in che Belgio, va a morire non alla vi ricordate Mecca. Niente cosa è successo nell'85? Allora durante una partita di calcio. Che per il giubileo se ne schiaccino 50.000, perché così siamo migliori. Ma che sta dicendo? Non vi ricordate cosa è successo a Lima nel 1964 con 400 morti allo stadio? Che colpa ma non sa, ma veramente siete piccolo. Proprio ignoranti del midollo. Ma lei proprio. Invece non si ricorda il bel colpo che ha preso in testa quando era piccolo. Se l'è no, ha paura dell'Islam, ha paura della reazione. Ma non ho paura, siete dei pazzi a scatenare questa no, guerra santa. Scusa, giocate col fuoco, in insultate milioni di persone, ma non è un gioco. Non vi parlate, ma non insultate milioni di persone, non è possibile. No, no, ragazzi, non è ho detto possibile semplicemente... che ci siano no, italiani come lei. No, hai detto che tu lei, cose bestiali. Avete insultato io... milioni di persone. No, no, non dire è incredibile. Cose. Io ho detto semplicemente una cosa. Io ho detto una cosa. Che è una follia. Cosa medievale, incivile, che in un posto sta da 1990 insultando sono milioni morto di persone. 3000... No, il problema lì è il perché governo perché è normale saudita. Che uno va a fare là ancora. Sette giri della cosa per la purificazione ma vedi che sta insultando? Vedi che sta insultando milioni di fedeli? Non mi dire che è una cosa civile. Milioni di fedeli sta insultando. Anziché parlare della gestione che l'Arabia Saudita fa di un evento come questo. Ma perché vuoi sempre confondere le pere con le mele? Ma perché non siete ha il coraggio di dire che è bestiale, che è una mattanza, che una vita umana non può valere meno di una preghiera, che la vita è sacra, non che non si niente. Portano i bambini a essere schiacciati come delle zanzare? Perché non capisce queste cose qua? No. Perché non vabbè, le capo non comprende? Se tuo figlio, fuoco. Daniela, se tuo figlio si mette con una col velo, tu che fai? Se si mette mio figlio con una col velo, dovrei prima di tutto capire se il velo se lo mette per costrizione o per convinzione. Stando con mio figlio che non è un barbuto e che non ha quella visione delle donne, sì. Escludo che si terrebbe il velo. Forse sarebbe liberata dal velo. Sarebbe liberata dal velo grazie al figlio di Daniela Santanchè. Che essere, non è certo so, un barbuto, che non è, è uno di quelli è difficile che ammazza che le donne. Voi, siete i, voi anziché fare queste cose... Ma io voi chi? Ma perché voi? Beh, tu voi, hai insultato l'Islam voi? E i fedeli che vanno lì. Io ho detto semplicemente lì. Che è una cosa incivile detto delle cose medievale. Di una gravità il fatto inaudita, che ci sia un posto me. Dove ogni anno muoiono delle persone schiacciate. E quindi te la dovresti prendere con il re saudita anziché con i fedeli. Da una parte all'altra, nemmeno le bestie si riducono così, nemmeno le bestie. Mamma mia, mamma mia. Tu che chi va alla Mecca? Chi va alla Mecca è in civile, tu dici, è una bestia chi va alla Mecca. Se si comporta in questa maniera ma non hanno qua, fatto niente quelle pazzesca. Persone ma perché non lo capite ma a vabbè, me ragazzi, veramente però voglio io sentire... non posso parlare con gli stupidi guarda ma veramente mi no, sembra però una roba sentire... neanche quelli che hanno preso un colpo in testa che mi si sembra sono talmente come tu lei. Lo, Davide tu lo riduci a un problema di organizzazione dell'Arabia Saudita è ridicolo francamente ma non c'è dubbio te lo dico sinceramente che tu lo riduci a un problema di organizzazione voi state insultando la sensibilità di milioni di fedeli stiamo dicendo quello che pensiamo e rendetevene conto almeno di insultare quelle persone. Rendetevi rendetevene conto. Sa cosa fa? Le sa invece lei? Rendetevene conto. Rinuncia a combattere per la libertà e per la civiltà di chiunque. Combatte lei. Lei rinuncia a combattere per far passare un concetto che la vita è sacra. Lei rinuncia a combattere a tutto questo. Per ma glielo dica anche a quelli che vanno alle partite di calcio e sparano. Ma glielo dica anche a quelli. Ma chi dice che è pericoloso? Ma lo faccio lo stesso. Allora io dico una cosa. Stai godendo, Daniela, per la Volkswagen e per la Merkel? O no? Io sto godendo nel senso che... No, stai godendo, dai. Sì, sto godendo per un motivo da italiana sempre, perché questi ci hanno rotto le palle a noi sul deficit, ci facevano le copertine, che noi siamo mafiosi, che siamo truffaldini, che siamo indisciplinati. Ci davano le bacchettate sulle mani, ci mettevano nell'angolo in castigo. Adesso voglio dire, in castigo devono essere loro. Adesso sono loro, castigo, perché già io ho difficoltà con gli Stati Uniti d'Europa, ho molte più difficoltà con gli Stati Uniti tedeschi. Adesso la Merkel finisce di fare la maestrina e la Merkel adesso deve dire tutta quanta la verità, perché io escludo o mi devono convincere. Secondo te lei è una truffatrice pure lei, diciamo. Io dico che questa volta noi italiani, con quello spirito di orgoglio e di appartenenza, per una volta possiamo dire che i tedeschi sono patacari. I tedeschi patacari, benissimo. Dunque, poi bisogna vedere se c'entra il governo, se sapeva, se no, non no, sapeva. No, ma guarda, io faccio un ragionamento altro, posso chiuderlo in 30 secondi? Ma sarebbe come se dicessero gli italiani sono la Santanchè. Ma io francamente mi sentirei offeso se un deputato del partito non bisogna commettere l'errore di dire che i tedeschi o gli italiani sono cruciani. Ma no, dice no, no momento, posso, corno. Cruciani per fortuna è uno, ci sono altri 59 milioni di persone che francamente... Vabbè, allora qual è il ragionamento? Scusa, tu, Parenzo, Cruciani o io, voglio dire, siamo dei mafiosi? E i giornali tedeschi però dicevano Italia mafia. Ma non è che tu c'hai una Volkswagen o una BMW, no? Non ce l'hai? No, io ho una Maserati, perché sono nazionalista e compro macchine italiane. Ho una 500 e quindi sì, è una Maserati. E allora? No, per carità, sto dicendo, ecco. Maserati. Ma cioè, volevo dire solo un... Se mi date un secondo su questa roba Audi e Volkswagen. Volevo solo dire questo. Succede? Che non è... Io non so con l'ambientalismo radicale, perché capite che se andiamo in quel senso lì, a me non interessa i parametri, non i parametri, mi interessa che qua c'è la menzogna e la truffa. Allora forse la storia dell'euro in poi si potrà magari riscrivere. Perché fare la guerra alla Germania? No, questa è la dimostrazione che la Merkel e la Germania si fanno i fatti loro. Loro fanno tutto quello che gli è utile e questa volta li hanno beccati. E cosa sappiamo cosa è successo sulla Grecia? Che ci bastavano 9 miliardi per salvarla, ce ne hanno fatto spendere 9 miliardi. Devo dire la verità, che Daniela Santanchè, Parenzo, tu non la conosci, ma ha aiutato mia figlia. Devo rivelare questa cosa qua. Allora, in una situazione molto particolare in cui c'era bisogno di avere, e c'era bisogno che mia figlia... ero stato invitato in un posto, poi siamo andati a casa con un po' di persone ed era un po' così, era un po' nervosa perché l'avevo portata in un posto dove non voleva andare, e devo dire che si è comportata, caro Parenzo, in maniera impeccabile, cioè nel senso che tu adesso la vedi, no, quando sta nei talk show, è una persona molto per bene, infatti l'ha fatta non è, cucinare insieme, hanno cucinato insieme, c'è questa immagine meravigliosa, mia figlia le cucina insieme a te. Ma io ti denuncerei al telefono azzurro, ma insomma comunque poco male. E uno che porta la bambina a casa della Santanchè, portala al cinema, portala al giostre, portala a giocare a casa dei bambini, ma non perché è la Santanchè, perché per carità anche a me è molto simpatica, Andrea, anche ed è anche una grande cuoca, ma no, ma io non dico questo, dico che se un padre porta la figlia ma a casa della Santanchè, ma anche a casa di Bersani, faccio per dire, vabbè, dillo, anche però, a casa ma no, ma è uguale, ma che c'entra, è da denuncia di telefono azzurro, ma lei è cretino proprio, ma lei è proprio è da telefono azzurro, io la porterei al cinema, a Luna Park, a teatro, ma no, a casa della il Santa problema anche. È che lei a casa mia non ci viene. Ma no, ma questo, capisce? È un altro problema. Questo è il suo problema, io lo comprendo. A me fa veramente impressione incredibile che uno porta la figlia a casa mia, anziché vedermi portare... a cucinare, avere questo privilegio, cucina. Sedersi al mio desco non ce l'ha. Ma no, ma e quindi capisco non è... che l'invidia è una roba orrenda. Vivrò lo stesso, non si preoccupi. Però capisco io, che è brutto, ma se perché c'è non qualcuno del telefono dice che hai fatto ieri, guarda, ho portato mia figlia a casa di Verdini. Dice, ma guarda, tua figlia, francamente, se la portavi forse a vedere un film di Walt Disney, forse era più contenta la bimba. Ma lei non ha visto, invece voglio dire, la figlia dice, no, l'ho portata a casa di Verdini. E ha imparato invece a fare due torte meravigliose, le abbiamo date anche vero. Il nome, e invece è stato bellissimo, abbiamo cucinato insieme e abbiamo fatto le cose, e lei dimostra proprio di non sapere con chi sta parlando. Ma io sono felicissimo, so che lei è una madre adorabile sulla vita delle persone, ma io lo so che lei che da telefono azzurro, capisci? Ma io so che lei è una madre adorabile. E vergognati, quindi... vergognati per quello lei che lei è una madre adorabile, è anche una persona azzurro, molto simpatica. Ma è proprio un cretino. Lei è una persona molto simpatica e una madre adorabile. Dico semplicemente, allora lasciamo stare la Santa. Dico semplicemente, anche a casa della Boschi non avrei portato mia figlia io. Tutti riferiti a lei, a casa della Boschi. Sì, a lei, ma a chiunque. E poi se la prende che io dico che è una roba bestiale. No, ma uno dice che una bambina viene a casa mia. Io discuto del fatto che Cruciani la domenica non ha niente di meglio che portare la, anziché portare la figlia al cinema o a teatro, la porta a casa, la porta... mia fa scuola di cucina. Ma può essere anche a casa la figlia di Cruciani come è stata contenta, sono sicura che quel molto pomeriggio contenta, se lo ricorda contenta. Assolutamente, me lo dice ogni volta Daniela, le quiche, le cose. Devo dire, devo ammettere, di fronte a questo devo alzare le mani. A proposito, figlia la porto al cinema. Hanno fatto il tuo nome per il sindaco di Milano, ma hai detto di no. Perché hai detto di no? Ma assolutamente no, perché non io perché si guadagna vita... troppo poco, questa è la realtà. No, non mi posso permettere questo lusso. Perché fare il sindaco di Milano vuol dire lavorare a tempo pieno e cercare di cambiare questa società e questa società. E si guadagna troppo. Non è una questione di guadagno. Sì, anche quello. No, è una questione di impresa. Siccome chi fa l'imprenditore nella vita ha un sogno e ha tante responsabilità, perché ho tanti dipendenti, perché ricordo che in borsa, non è che si guadagna poco, è una visione. Vabbè, vorrebbe dire mandare a casa tanta gente, vorrebbe dire delegare, che c'è. Uno può delegare, cioè. Ma come li consideri quelli che vanno con Verdini? Nella mia impresa non si può delegare. Come li consideri quelli che vanno con Verdini, questi trasfughi, eccetera? Quelli che a me non da piace, Forza io per me voglio vabbè, dire questo, sono vabbè. Degli amici e trovo che hanno compiuto una cosa assolutamente sbagliata da un punto di vista politico, perché non ha senso, non ha futuro. Vabbè, non sono traditori, eccetera, non te ne frega niente di queste definizioni. Ma io voglio dire, come Parenzo prima, vede, Parenzo nei miei confronti non aveva un giudizio, aveva un pregiudizio. Quello che chiedo nella vita non sempre è di così. Non essere giudicata, ma di avere un pregiudizio. Senti, per quindi. Scusa, poi chiudiamo. Per te le moschee, Marine Le Pen è stata rinviata a giudizio per odio razziale per aver detto che le moschee sono come l'occupazione del territorio. Paese serio la Francia. Paese molto devo serio. Dire la verità, però non è che ha detto una cosa strana, ha detto una cosa adesso per odio razziale, perché dice che le moschee paese chi civile prega, la Francia. Chi prega in piazza, musulmani che pregano in piazza è come l'occupazione del territorio. Non mi pare una cosa così. Cioè, è un'opinione discutibile, ma non è che uno è istigazione all'odio razziale, no? Molto perché serio, le preghiere francese. Dei musulmani. Vabbè, anche ma voi per non siete dimenticati che parlate con una che è stata condannata a 5 giorni di galera e a una multa, e adesso sono stata ricondannata più alto risarcimento a pagare UCOI 30.000 euro che non ho pagato, tant'è che mi hanno pignorato tutti i conti correnti e non pago all'UCOI semplicemente perché ho detto delle cose in televisione che non sono né razziste né fasciste. Cioè, le moschee, Parenzo, perché... si sente di dire che la Merkel è fascista razzista, visto che ha sospeso Schengen e ha fatto una selezione razziale che vuole solo i siriani? Assolutamente no. Non se la sente vabbè. Neanche dire no questo, ma non me la vero? Sento perché non è non credo che sia così assolutamente. Non credo. Avrà un piano per l'accoglienza che l'Italia e il resto d'Europa se lo sogna. Daniela, avrà un piano per l'accoglienza che noi altri dire, palle di velluto proprio quelle di Parenzo. Ma che c'è perché attaccare la Merkel che mica le mica di roba... che, come ce l'hai le palle normali o di velluto? Ce l'ha proprio, ma come di quel velluto come ce l'hai adesso non ho controllato le moschee sono è come l'occupazione del territorio costruire una moschea. Le moschee intanto c'è una mia proposta di legge prima vabbè, firmataria, ma le moschee sono... che le moschee in Italia bisognerebbe prima di tutto fare un censimento, perché vi ricordo che chi va in moschea è il 5% dei musulmani, e facendo i conti quanti sono in Italia oggi le moschee bisogna chiuderle. L'occupazione aprirle. Del territorio bisogna è come chiuderle, non bisogna aprirle. Chiudere le moschee, bisogna chiuderle le moschee, fare un censimento, fare una legislazione che abbia la trasparenza dei bilanci. Quelle che ci sono adesso, chiuderle. Quelle che ci sono adesso, non le chiudono in nessuna Europa, in Italia, in nessuna parte di Europa. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Ciao, a presto. Telefono azzurro, mi raccomando. Telefono azzurro, ragazzi, restate qui che c'è una cosa clamorosa adesso. È clamorosa. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzare. La Zanzara. Pronto, buonasera dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilata. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Vicenza, Antonio, vai. Ciao Giuseppe, ciao David, sono dimmi, Antonio. Dimmi. Allora, visto che ieri parlavate dei ragazzi vegani che crescono 4 centimetri in più del normale. Ma non è che lo dico io, cioè, lo sì, dice, sì, lo dicono. Secondo me, Paola Maugeri, non so, i vegani dicono che i bambini vegani crescono di più degli altri, è una follia totale. Allora? Ecco, no, porto la mia testimonianza, ho due figli, una di 10 sì. anni, uno di 13. Mia figlia venerdì ha mangiato filetto di zebra. Ed ottimo, è la... filetto di zebra. Che cazzo fai a mangiare il filetto di zebra a tua figlia? Dove si trova? Sì, al ristorante lo propongono, si mangia. Ma non è normale, cioè io scusami, io però vado al ristorante. Di solito non conosco ristoranti che propongono il filetto di zebra, a meno che non ci stai chiamando, non so, dal Sudafrica. Cioè tu conosci i ristoranti a Vicenza dove mangiano, dove si offre il filetto di zebra? Spiegami. Ti invito a cena, ti offrirò il filetto di zebra. Parenza, al ristorante. Perché chiamano tutti qua, secondo Beh, te? Questa è una domanda che ti dovresti fare e anche preoccupare. No, io sono anche contento di queste stranezze, ma dov'è che, scusa, dov'è che servono filetto di zebra, amico mio? All'uscita dell'autostrada di Montecchio, tra Vicenza e Verona, c'è proprio uscita Montecchio, e lì c'è un paese, si chiama Brendola, dove servono il filetto di zebra. Di zebra. Beh, ed è favoloso, la fine del mondo. Spettacolare. E tua figlia? Mia figlia l'ha assaggiato, ha detto che è spettacolare. Ed è la più alta della classe perché adesso ha 10 anni, misura 100, sì. un metro e sì. 60 vabbè. Centimetri. Vabbè, ma quindi, tu adesso ci stai raccontando questa cosa, ma non era necessario. Cioè, sappiamo che è una minchiata colossale quella che ci hanno detto alcuni vegani, cioè che i loro figli crescono di più degli altri. Dai, su, di che stiamo parlando? Grazie, Marco, sempre Vicenza, provincia, vai, Marco. Ciao, Cruciani. Dimmi. Mi devo riprendere un po' da tanto tempo che ti aspetto. Ascoltami, allora, ti ricordi il sindaco di Francavilla che tempo quest'estate è entrato in trasmissione e che minacciava i frequentatori delle prostitute di fotografargli e di fargli il manifesto? Sì. Te lo ricordi? Me lo ricordo, come non me lo ricordo? Certo. Ok, allora... perfetto. Io, dato che sono un potenziale miserabile, come dice Parenzo, sì, sono stato due sere a Francavilla. Ho avvicinato... Ma tu non sei potenziale miserabile, sei sicuramente un miserabile che vai sicuramente a puttane. Adesso a noi ci viene a raccontare che non ci vai perché ci sarà tua moglie, tua sorella all'ascolto. No, io ci vado, però a Francavilla non ci sono andato, ho solo avvicinato le prostitute. Mi hanno tirato 5-6 per due sere, ma non ho avuto né l'onore della fotografia e né l'onore del manifesto. Questo per testimoniarti. No, ma questo probabilmente questi qua fanno gli annunci e poi non fanno la mazza, appunto, concretamente. Appunto, ecco. Tanto che fanno tanto fumo, niente arrosto, ci vogliono passare un giorno, un'ora di pubblicità e di risonanza, che dopo invece non fanno niente. Io ti volevo dire... Ciao! Dimmi, Marco, dimmi. Mi senti? Cosa? Sì, vai. Allora, perché non promuovi delle firme per la... Solo tu ci puoi uscire, per riuscire. Perché non promuovi la riapertura dei ritrovi come ci sono in Austria, in Svizzera e in Olanda? Amico mio, ma da quanto tempo ci ascolti? Questo è un peccato gravissimo, un reato penale. Cioè, è una vita che io personalmente faccio una campagna per la riapertura delle case chiuse, per la legalizzazione della prostituzione. A voglia a te, mica la prima volta. Dai, su, Marco, ciao. Allora, fermatevi tutti, perché ragazzi, non è che ci volesse questa prova per dimostrare che alla fine ci pigliano sempre per il culo, però sapete che in questi giorni c'è una sorta di migrazione, a voi non ve ne frega niente, voi che avete un sacco di problemi, che viaggiate, che siete in fila a questo cazzo di Expo, eccetera, eccetera, che siete una fila incivile qui all'Expo, perché tutte le file sono incivili, e fare 2 ore, 6 ore di fila è un'inciviltà assoluta. non me ne frega niente di queste storie interne dei partiti, chi passa con chi, però c'è un senatore che si chiama Auricchio, come il provolone Auricchio, anche se non ha nulla a che fare col provolone, Mimì Auricchio, che è stato eletto con Berlusconi, è subentrato la Mussolini quando la Mussolini è stata eletta al Parlamento Europeo, e questo signore era uno fedelissimo di Berlusconi. A un certo punto ha deciso di andare con Verdini, caro Parenzo, ha deciso di andare con Verdini perché dice non si può non votare la riforma del Senato, la classe dirigente di Forza Italia non c'è più, Renzi è un grande statista o comunque uno importante, uno che gli piace Renzi, eccetera eccetera. A un certo punto che è successo però? Abbiamo ricevuto un nastro. Cioè Berlusconi ha rotto con Berlusconi, abbiamo ricevuto un nastro, il solito nastro. Berlusconi lo ha chiamato Berlusconi, e senti la reazione quando Berlusconi gli ha detto resta con me. Pronto? Sì, buongiorno, qua Arcore, senatore Auricchio. Sì. Le passo il presidente Berlusconi un attimo. No, grazie. Un attimo ancora, sta arrivando. Allora, sindaco, pronto? Come stai? Benissimo, non ti preoccupare, tu sei il mio cuore. Non ti preoccupare, poi gli arriviamo un po' da vicino. Puoi parlare un attimo? Siccome no, io voglio solo che questa classe dirigente di Forza Italia non ha le palle come Silvio Berlusconi. Lo so. Questo è il mio dispiacere, che ti devo dire delle cose importanti da vicino. Sì, ma allora sindaco, vai con Dennis, mi abbandoni. Vai, non ti preoccupare, parliamo un po' meglio, io voglio parlare con te. Ma io ti ho chiamato apposta per capire. Ecco, chi io te lo fa fare con te da vicino. Chi te lo fa fare? No, a me non ti preoccupare, io voglio parlare con te. Ma io mi preoccupo invece. Quando ci possiamo vedere? Adesso organizziamo, ma dimmi esattamente cosa posso fare per te. No, niente, io devo chiarire una cosa, poi niente, non ti preoccupare che io sono sempre Silvio Berlusconi, sono io Silvio Berlusconi. Lo so, sindaco. Silvio Berlusconi non c'entra, perché Silvio Berlusconi per me è come la Madonna. Sarò lo anche... Sento, lo ripeto... Ok. Dicevo, sarò anche come la Madonna, ma quando ci siamo visti mi hai giurato fedeltà. Non ti preoccupare, allora noi ci vediamo, avanti. Forse, quando stai a Roma, quando ci vediamo? Adesso organizziamo. Adesso io sto sul treno, sto tornando a Napoli. E vedi tu quando devo tornare, quando ci vediamo. Adesso dico alla segretaria e ci organizziamo, ti richiamo, devo vedere i miei appuntamenti. Okay. Però, sindaco, io lo considero un tradimento. Non ti preoccupare, presidente. Ma io mi preoccupo invece. No. Quando ci siamo visti l'ultima volta mi hai detto determinate cose. Poi ti dico io da vicino, io devo parlarti da vicino. Ma allora poi mi abbandoni, vai con io. Dennis o no? No, non ti preoccupare, sto con te. Allora scusami, se non vai con Dennis, e questo naturalmente mi fa piacere, io vorrei che tu facessi una dichiarazione pubblica, che ci siamo parlati e che resti con me. Questo me lo devi fare. Io non ti preoccupare, mamma, forse poi ci vediamo, ma senti questo appuntamento, voglio risolvere delle cose, non ti preoccupare. Allora io posso stare tranquillo, resti con me. Sì signore, tranquillissimo. E invece con Gasparri cosa è successo? No, ho capito, ha fatto delle cose, ha fatto la dichiarazione da cretino. Non sento più, pronto. Però ragazzi, non è finita qui, non è finita, perché Berlusconi a un certo punto lo ha richiamato, avete sentito prima cosa ha detto, sono io Silvio Berlusconi come la Madonna, non ti preoccupare, resto con te. Pronto? Sì senatore, la rimetto in collegamento un attimo solo. Grazie. Eccomi sindaco, non ti ho sentito più. No, è persa sul treno, presidente. Mi dispiace questa, perché io devo chiarire una cosa solo con te da vicino e poi siamo a fuoco, non ti preoccupare. Sì, ma io ti avevo chiesto di Gasparri, cosa è successo con Maurizio? Ah no, ma niente di particolare, perché io non ho che lui dice cretinate sul giornale, no, questo non l'accetto con lui. Ha detto delle cretinate, dici? Come no, a offendere nei miei confronti, qual è il problema questo signore che io... poi vi spiego un po'. E con Romani poi vi siete parlati, con Romani? No, Romani non abbiamo detto niente, hanno fatto solo una cretinata, quello di Napoli, hanno preso il partito, Mimì non è più di Forza Italia, l'hanno data ad Ambrosio Serafino. Serafina ha detto abbiamo usurpato il simbolo a Mimì Maurizio, e non ti dico che hanno combinato quello di Napoli. Ecco, io non lo so perché, no, ma non ti dico, in un attimo hanno dato questo partito, ma a me neanche se mi ammazzano, io toglierò dal mio, perché c'ho dal 94 questo circoletto e manderò sempre quella bandiera là fuori. Mi devono solo ammazzare. Senti, ma Dennis, cosa ti ho offerto, voglio dire? Niente, Presidente, io ti chiarisco, non ti preoccupare, chiarisco, me ne resto con Forza Italia e con Silvio Berlusconi, non ti preoccupare. Va bene, allora ti prendo in parola e poi mi auguro che lo dirai anche pubblicamente. Come no, ci mancherebbe, come no. Io non posso, io non ho tradito nessuno, perché io a te non dite. Perché io non sono morto, io non sono finito, e questo non tu dovresti sapere. Non mi fai fare, non ti preoccupare. Va bene, tutto sindaco. A posto, presidente. Tutto a posto. Questo è, no, però ti devo chiarire delle cose. Va bene, allora ci sentiamo. Poi io meritavo questo, che in un attimo dice no, Mimì non ha più il simbolo di Forza Italia, però io dirò. E lo dico, a me mi devono ammazzare per togliere quella bandiera da lì, da quel simbolo di Forza Italia. Io il circoletto ce l'ho dal 1994. Va bene. Allora, sindaco, ci vediamo presto e chiariamo definitivamente. Presidente, tu sei il mio presidente fino alla fine del... basta, non parliamo più. Va bene. Ciao, va buon bene. Viaggio, a presto. Ciao. Ciao, presidente. Ciao, sindaco. Ciao. Brucità. La Zanzara. Ma sei dei problemi, Cruciani. A Crociata hai dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. Allora, oggi il vicepresidente del Senato Gasparri, se l'è presa innanzitutto con il Papa, col Papa direttamente no, diciamo con l'omaggio a Che Guevara, in realtà non è stato manco un omaggio, insomma gli ha dato fastidio vedere il Papa accanto a Che Guevara, dunque se l'è presa con il Che. Il fatto storico che Che Guevara era un terrorista e i fratelli Castro dei criminali. Che Guevara era un persecutore dei gay, ad esempio. Che Guevara ha massacrato un sacco di gente. I Castro tengono ancora in galera quelli che non sono d'accordo con loro. E poi, siccome è stato criticato... Gasparri è forte perché parla di cose più grandi di lui. Critica il Papa. Però, che voglio dire, adesso Guevara... ognuno faccia quel che deve fare. No, Gasparri faccia Papa, Gasparri. Si occupi di legge elettorale, non si occupi della Papa, droga, contro la droga, eccetera. Ma perché si deve occupare di cose più grandi di lui, Gasparri? No, ma sarebbe come molto... se io mi occupassi della fusione fredda. Dice, vale, Valenzo, non si, si occupi di Scilipoti, non della fusione fredda. Perché, non e può infatti, parlare di Che Guevara, purtroppo mi occupo di Che Guevara. Ma sono cose più grandi di lui, più grandi di lui. Comunque, a un certo punto, siccome il profilo ufficiale della birra Ceres... Il profilo ufficiale della birra Ceres lo ha criticato. Male alla schiena, guarda, me ne vado io. Male alla schiena. No, ma aspetta, ti voglio consigliare qualcuno. Mi sa che posso anche lanciare un appello se vuoi. Cioè, che cosa ti è successo esattamente? Poi facciamo sentire la seconda parte di Gasparri. Ma cosa esattamente cosa ti è successo? Magari chiama un medico. Lunedì alle ore 11 stavo facendo come al solito la mia ora di palestra. Sì, ma se uno non è in grado, mi dicevo mio amico, se uno non ce la fa. Ma sono mesi che lo faccio. È inutile andare in palestra. Sì, ma c'è chi è in grado e c'è chi non è in grado. Sbagliato con quelle palle d'acciaio. Come si chiamano? Ma non sei in grado, E ho fatto un movimento sbagliato e praticamente è da lunedì che sono curvo, non riesco a fare, ho un male alla schiena terrificante. E adesso il dottore, la dottoressa Finzi, Nicole Finzi, mi ha dato delle punture da fare due volte al giorno. Ma una non ebrea, la conosci te? Una non ebrea, ma sì, a parte certo, me, però questa è una mia amica. Le dottoresse pure ebree, pure loro. Ma no, cosa c'è? Vabbè, così, dire così, per è una curiosità. Ci sono tanti altri dottori. Non sapevo chi chiamare quel giorno. Hai chiamato mia amica. Vabbè. E le ho chiesto un consiglio. Ti farà le punturine? Ti farà le punturine? E mi fa, devo fare, non dico la marca, ma devo fare due punture. Due. Due. Vabbè, al, vuol dire quattro, perché sono quattro siringhe al giorno. Ma chi se ne frega? Chi, no, che no, non dico la cosa. Ma che chi se ne frega, dai? Non si dice perché il farmaceutico. Ma che è il beco, la bibbe, non so che cosa. Vabbè, non lo dico. Ma fatto sta che mi fa un puccettone. Male... Ho capito, ma è un film. Cane. C'era una scena, puccettone. Se tu non sei in grado, se non sei in grado di no, fare ma non è cosa, quello, capita a chiunque di fare un movimento sbagliato, è un ma dolore sei, atroce, non, guarda. Tu non sei nato per fare atletica. Ma adesso per sto facendo la radio in piedi per dirti, per darti l'idea. Sono è bellissimo la radio in piedi. No, ma sto facendo in piedi perché ho male alla schiena, non riesco a stare seduto su queste sedie. Ma allora, guarda che adesso Gasparri denuncio l'azienda. Contro la Ceres, anzi no, la Ceres se l'è presa con Gasparri per anche questa lì. Dice che vale. Ma... Aspetta, aspetta, senti la reazione di Gasparri sulla Ceres, la birra Ceres. La birra Ceres fa malissimo, non la bevete. Io l'ho bevuta solo una volta in vita mia, mi sono diventati i capelli bianchi, erano nerissimi. Quindi appena ho bevuto una birra Ceres mi si sono stinti i capelli. Bevete altre birre. Qual- la guerra di Gasparri alla Ceres che continua, sentite. Quindi siccome loro fanno un marketing creativo che interferisce con la politica, io farò un marketing creativo che interferisce con la birra. La Ceres non me la bevete, ma quelli che sono contro di me la berranno, ma chi è a favore non la beva. Va bene, andiamo a in provincia di Pavia. Se una cosa simile fosse accaduta negli Stati Uniti, cioè che un senatore del Wisconsin o di qualsiasi altro stato avessi fosse per riuscire a dire le stesse cose che ha detto lui contro una marca, contro... Sì. Ma sarebbe scoppiato il putiferio. È che col fatto che è Gasparri, no? Per cui non succede niente qui. Daniele, non c'è. Però, più Angelo da Torino, dai. Non è normale una cosa simile. Vabbè, dai, su, schermaglie, schermaglie. No, dai, ma in America schermaglie. Non sarebbe. Aia. La schiena, Angelo Torino, vai. Angelo. Angelo. Angelo, senti. Vai, dimmi, caro, dimmi. Ciao, caro. Allora, prima di tutto volevo congratulare. Sì, ma che stai facendo? No, ma ragazzi, però su, dai, forza, parla bene, Angelo, dai, ti prego. Che c'è? Angelo, no, parla di distante, vai, dimmi. Senti. Dimmi. Allora, prima di tutto volevo congratularmi con Parenzo perché è una persona intelligente che conosce le religioni e tutto, mentre tu vedo che sei un po' scarsino, sì. Con le religioni. Ma spiegami perché, dimmi. Ma io non voglio essere esperto, ti sto dicendo semplicemente che quello che è successo è una roba incivile. È civile o no il fatto, o incivile il fatto che muoiano 700 persone alla Mecca? Se voi la considerate come una cosa normale, siccome non è la prima volta, nessuno ha detto questo. Non è la prima volta, non è la prima. Se voi considerate tutto questo normale, questo martirio annuale normale, sono fatti vostri. Io lo considero una cosa medievale. Medievale. A parte che considero medievale andare lì, fare la cosa purificatrice, il giro sette volte a piedi, questo obbligo una volta nella vita. Lo considero scusa, tutta i pellegrini roba. Che fanno è un tuo francigena. Pensiero, ok. È un mio pensiero, ma considero tutto questo come dire. E quelli che fanno il cammino di Compostela. Ma io rispetto il tuo pensiero, ma se mi consenti. Non fare paragoni blasfemi. Tu, non fare paragoni blasfemi. Il cammino di Compostela con che di quelli strano? Che vanno alla Mecca. Dai, forza. Dai. Sono fedeli uguali, allora, ma che c'entra? Vabbè, è come andare a Lourdes, a credere alla Madonna di Lourdes. Ma certo, ma meritano rispetto. Vabbè, allora... Volevo dire, ma niente, io sto non sto dicendo che non li rispetto, posso dire la mia o no? Sul certo, fatto che considero non tutte queste cose le religioni medievali, considero tutte queste cose di una... Di un, non lo so, le considero proprio il male assoluto. Vai, Angelo, dimmi. Ok, guarda, io ho sposato una donna tunisina. Sono sposato da 10 anni, io sono italiano, cristiano, battezzato, tantissimi auguri. No, stiamo bene, abbiamo anche dei figli e stiamo benissimo. Mia moglie mi ha spiegato molte cose della religione musulmana. Ma scusa, ma adesso e te le dico, no, te lo dico in due minuti e poi me ne vado via perché ho fretta veloce, anche io. Però. Non voglio disturbarti. I musulmani credono alla Madonna, credono a Gesù Cristo, no? Ecco, mentre quindi come profeta, non come figlio di Dio e cosa, ognuno la pensa, vabbè. No? Vai al sodo, cazzi loro. Io ho promesso a mia moglie che se un giorno ho la possibilità economica la mando alla Mecca, perché i musulmani almeno una volta nella vita devono, non devono, questo lo ci sappiamo. Tengono dunque, ad andare alla Mecca. Dunque? No. Quindi io sono d'accordo con Parenzo che lì è un fatto di organizzazione, certo. Perché se fosse organizzato bene, visto che diciamo l'Arabia Saudita sono alleati degli americani e tutto, poi non fanno neanche guidare le donne la macchina. Ragazzi, sono se riducete no? quello che è successo a una questione di organizzazione, siamo veramente fuori dal mondo. Paolo da Milano, ciao Angelo. Paolo, dimmi. Pronto? Paolo, dimmi. Sì, pronto, ciao Cristiano. Senti, no, io il mio intervento era semplicemente riferito alla storia della coda all'Expo, che parafrasando un film di Fantozzi è come la corazzata, è veramente una cagata pazzesca. Cioè, ma io non riesco a capire le persone che stanno in fila due ore, tre ore, e c'è anche chi fa l'elogio della coda, coda. Appunto, ma anche cioè dicendo che il successo dell'Expo è dimostrato dalle code. Le code sono incivili. Chi sta in coda per ore dovrebbe ribellarsi a questa inciviltà. È una brutalizzazione. E tenere sotto sequestro le persone, andatevene, distruggete le code, sei ore per il Giappone. Ma che cazzo c'è da vedere? Io sono andato perché sono privilegiato, mi sono infilato dietro e sono andato. Cazzo, vediamo questo Giappone. Ah, sì, vediamo, sarà una cosa straordinaria. Gente che sei ore in fila, sarà bellissimo. Una cagata mondiale. Ma perché dire roba stupidaggini per forza? Non posso nemmeno dire che ho trovato il padiglione del Giappone una cagata. È una cosa che vive anche di bassa parola l'Expo, no? Ma ce la fanno bere come una cosa che dovrebbe allora, non posso essere dire nemmeno che il Giappone è una cagata. Detto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari del Giappone, è una cagata pazzesca. Cioè, è una cagata. Vai lì, ci sono delle slide sul cibo giapponese, ma chi se ne frega? Sei ore di fila, sì, se uno ci mette 10 minuti di fila, dice vabbè, ci vado. Ma sei ore di fila per andare a vedere come fanno il sushi, vai a fare in culo. Scusa, questa è la mia reazione. O no? E che cazzo? Sono d'accordissimo. Dai, su, lo voglio dire a tutti quelli che sono in attesa, fottetevene di 6 ore per andare a vedere il Giappone, dai. Ma appunto, ma cosa vado all'Expo a fare la coda? Cioè, qual è il principio? Uno è masochista, vai all'Expo a fare la coda. Io non sono masochista, se vedo una fila non mi metto in fila. E considero immorale uno che, come Renzi, che ha detto il successo dell'Expo è dato dal fatto che ci sono tante file. Le file sono incivili. Ma che attrae persone? Non c'entra niente questo, dai, con attrarre persone. Non si dovrebbero fare le file, sì, 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, eccetera, eccetera. Sì, mia figlia, d'accordo. Per esempio, mi dice, perché non mi porti al padiglione dell'Azerbaijan? Ma tu sei fuori di testa, gli ho detto. Io non la faccio la fila, facciamo la fila. No, non la faccio. E la porti a cena a casa della Santa anche. Pensa, poveretta. Vabbè, ma adesso che c'entra questo? Cosa c'entra? Quello è successo per caso. Poveretta, ti credo. Per caso. Poi sulla storia della Sant'Anché, cioè della serie di tua figlia, secondo me è fatto benissimo. È una questione educativa. Non c'entra niente. Cosa? Ho fatto benissimo. È successo per caso. Ma poi comunque. Parenzo, secondo me, non capisce un tubo di questo. No, vabbè, vai, Claudio da Lucca, ciao Paolo, ciao Claudio, Lucca, vai, dai che chiudiamo, dai, così me ne vado, vai. Eccomi, chiudiamo. Ci sei? Vai, dimmi, caro, dimmi. Veloce, allora, vai, dimmi. Tre cose veloci. Parenzo, che tre, sei un grande, perché dice velocemente che siete due cretini, te e la Sant'Anché. Io ti aggiungo invece che non solo sei un cretino, lasciamo perdere che te all'inizio della trasmissione, secondo me, ti fai sempre di cocaina o di qualche altro. Hai veramente, dovrei insultarti, stupido, ma non ho nemmeno la forza. Guarda, devo andare a Tikitaka. Non ho nemmeno la forza, la voglia di insultare un imbecille come te. Per cui non ti insulto nemmeno. Tu vai a dire sempre chiudiamo la Mecca. Ma che cazzo stai a dire? Stronzate così grosse. Non senti, le devi amico mio, dire, veramente. Amico mio, io ho detto: se un posto dal 1990 produce 3.000 morti, il governo dell'Arabia Saudita, a cui non gliene frega un cazzo, dovrebbe chiuderlo. Una cosettina senti, io la cocaina te la fai morti. Tu a casa. Spero, anzi, dovresti fartela, perché mi sembri un po' moscio stasera. Fatti un po' di cocaina. Fatti un po' di coca. Io non me la sono mai fatta in vita mia, perché non me ne frega niente. Siccome mi sembri con la voce un po' abbassata, un po' così, fatti un po' di coca, così ti riprendi, passi una serata così, un po' diversa dal solito, da questa vita triste che credo fai una vita molto triste, o no, Claudio? Vuoi Claudio? Farmi parlare oppure vuoi solo oscurare? Ma vedi che hai questa voce così, no? Ci sentiamo dire, domani, parliamo di cocaina. Parliamo di cocaina. Io purtroppo devo chiudere, sono le 20:50. Vorrei rimanere a parlare con te per ore e ore sulla Sant'Anché, sull'Islam, sulla cocaina, su quello che ti pare. Ma devo chiudere, purtroppo devo chiudere. Resterei a parlare tranquillamente. Ci sentiamo domani, dai, ti abbraccio. Fatti un bel tiro stasera, ciao. Tu dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu.